Radio 24 Reportage. Com'è andata? Benino, perché non vorrei essere completamente negativa, comunque è un ruolo. Ma da Cosenza sono finita a Genova. Posto fisso, ma lontano da casa. Storia degli insegnanti assunti con il piano della buona scuola, di Maria Piera Ceci. Maria Teresa Volpone ha 42 anni ed è una delle insegnanti che finalmente, dopo anni di incertezza, entra di ruolo nella scuola. Non proprio sotto casa, ma comunque ora un posto di lavoro sicuro ce l'ha. Maria Teresa in questo piano di stabilizzazione della buona scuola ci ha creduto e nella notte fra il 1 e il 2 settembre, come molti altri, si è piazzata davanti al computer per conoscere il suo futuro. A mezzanotte e un minuto, puntuali, sono arrivate le attesissime proposte di assunzione con indicata la provincia in cui i precari dovranno prestare servizio in questo anno scolastico, come previsto dalla fase B del piano di assunzioni della riforma della buona scuola, quella per coprire i posti rimasti vacanti dalle prime due fasi. Si tratta soprattutto di insegnanti di sostegno. Fra i 70.000 che hanno fatto domanda, 9.000 hanno ricevuto per mail la proposta di assunzione a tempo indeterminato. Chi rifiuta o non risponde entro la mezzanotte dell'11 settembre perde ogni diritto acquisito. Viene cancellato dalle graduatorie, ad eccezione per chi ha una supplenza annuale o una chiamata da parte di un singolo istituto. Questi vengono assunti come previsto, ma potranno rimandare il trasferimento di un anno. Per 7.000 di loro, però, questa assunzione vuol dire andare via da casa, trasferirsi in un'altra provincia, spesso in un'altra regione. C'è chi parla incautamente di deportazione. I sindacati spiegano che non è facile per tante madri fare armi e bagagli e mollare la famiglia, tanto più con stipendi di circa 1.300 euro al mese. Una realtà che riguarda soprattutto insegnanti del Sud Italia e della Sardegna. Non è colpa di nessuno se i posti liberi sono soprattutto al nord, spiega il ministro dell'istruzione Stefania Giannini, secondo cui è fisiologico il numero di insegnanti che dovrà preparare armi e bagagli. Rispondo nel dire che il tasso di mobilità è quello fisiologico, perché di tutti questi che ho detto si muoveranno 7.000 insegnanti. L'anno scorso 7.700 insegnanti si sono spostati dalle loro sedi per una supplenza, quest'anno quelli che lo vorranno potranno farlo per un posto stabile di ruolo nella scuola pubblica. Questo dà dignità e possibilità di progettare la loro vita ai singoli e dà soprattutto quella prospettiva, che è un inizio, ovviamente ci vorranno alcuni anni per mandare a regime tutto questo complesso rinnovamento che la buona scuola prevede, ma sarà soprattutto la continuità didattica, la stabilità e la possibilità di progettare con risorse certe al mondo della scuola. Ma conosciamoli meglio i tanti che nella notte fra il 1 e il 2 settembre hanno ricevuto la proposta di assunzione. Fabio Miceli, insegnante di strumento musicale alle medie. Allora, abbiamo ricevuto la proposta in ruolo e ovviamente non sappiamo se accettarla, perché i chilometri dal posto dove mi trovo sono tantissimi. Di conseguenza si spera in una chiamata di istituto per mantenere il posto di ruolo senza rifiutarlo e rimanere dove mi trovo. Lei dove abita e quale sede le è stata proposta? Io abito a Ravenna e mi è stata assegnata Caltanissetta. E il mio spostamento prevede un allontanamento dalla famiglia. Quanti anni di precariato ha alle spalle? 8. Quindi lei spera in una chiamata dagli istituti di modo sì. che possa slittare di un anno? Esatto, pur accettando giuridicamente la proposta di ruolo. Sarà contento però finalmente di essere stabilizzato? Aspettiamo per dire questo. Vediamo come finirà. Vediamo come finirà. La pensa allo stesso modo Maria Teresa Volpone di Cosenza, che abbiamo già conosciuto all'inizio del reportage. Una madre disabile al 100% ad assistere, i dubbi sul futuro sono tanti. Piccolo shock c'è stato. Non mi aspettavo di finire così lontano. Credo che tutti i colleghi, come la sottoscritta, abbiano messo le province in ordine di vicinanza alla propria città. Quindi io sono calabrese, Calabria, Basilicata, è a salire, quindi il nord era proprio l'ultimo. Eppure al nord dovrà finire. Ci racconta la sua storia di precaria, quanti anni ha sì, quanti anni ha insegnato? Sì, allora io ho 42 anni, sono precaria da quando mi sono abilitata al 2002, ho iniziato subito a lavorare, quindi questa è una cosa che tengo a sottolineare. Io ogni anno ho avuto incarichi annuali nella mia provincia, sono passata di ruolo essendo inserita nelle GAE a pieno titolo. Non avevo fatto mai la scelta di partire in tutti questi anni per miei motivi strettamente personali, non potevo partire. La rabbia in effetti è anche un po' questa. Negli anni non ho scelto di partire perché non potevo e avevo la possibilità di scegliere dove, quando, le modalità, di farmi due conti, l'andare lontano fosse stata una cosa fattibile o meno. Non l'ho fatto perché ho detto sono nelle GAE, è una graduatoria ad esaurimento, dunque aspetto il mio turno, il turno prima o poi entrerò prima anch'io. Poi passerò di ruolo, tanto più che, ripeto, ho sempre lavorato sulla mia materia. Io insegno italiano e storia alle superiori a 0,50, ho anche abilitazione sul sostegno superiori, ho abilitazione scuole medie, sostegno scuole medie, storia dell'arte, quindi diciamo ero tranquilla, aspetto il mio turno perché non potevo. Il suo turno è arrivato ma a Genova? Il mio turno è arrivato ma a Genova e è stata una forzatura. Perché che se ne dica, ma è stata una tua libera scelta, nessuno ti ha obbligato, in realtà è stato un obbligo velato, ma un obbligo, ci hanno messo con le spalle al muro, perché c'è stata poca chiarezza, io contesto la chiarezza che non c'è stata, non abbiamo saputo, cioè non si è capito come questo benedetto algoritmo, il funzionamento dell'algoritmo. Quello che pescava i nomi e le associava alle province. Sì, però non è stato poi fatto tutto sommato, non è andato poi così, infatti poi le spiegherò. Non sono stati dati i numeri per classi di concorso. Che cosa sospetta? Qualcosa nell'ingranaggio non è andata bene secondo me, già la trasparenza, non ci sia trasparenza, ma volevamo fare una benedetta graduatoria unica nazionale per vedere, per capire, anche per mettere meglio le province, assolutamente. Quindi secondo lei c'è stata poca trasparenza e in questa poca trasparenza c'è qualcuno che ne ha tratto vantaggio in maniera illecita? Io non so se sono stati casi io vorrei sapere una cosa, anche questo, io sono passata di ruolo sul sostegno alle scuole superiori, con tot punteggio, colleghi con punteggi maggiori dei miei non sono andati a coprire il sostegno scuole superiori, parliamo sempre a parità di grado, ma sono finiti sulle scuole medie, quindi un grado inferiore. C'è qualcosa che non le torna? No, non mi torna. Che farà Maria Teresa? Andrà a Genova? Guardi, io aspetto le mie convocazioni, come ogni anno, mi auguro di prendere incarico come ogni anno, di rimanere nella mia provincia e in questo anno spero che qualcosa succeda. Io mi aspetto dei ricorsi, mi aspetto vorrei chiarezza, vorrei capire, cioè ho bisogno di questo anno per capire, è un salto nel buio, non partire così dall'oggi a domani, non è una cosa che non l'accetto, cioè il mio cervello non accetta, quindi mi auguro, spero di rientrare nelle convocazioni per poter rimanere un altro anno nella mia provincia e vedere cosa succede. Mi aspetto delle risposte. Le risposte invece le ha avute tutte ed è soddisfatto Andrea Gasparro, che a soli 21 anni torna nella scuola che ha lasciato solo 2 anni fa. Ma la mia storia è abbastanza travagliata. Io in realtà sono stato immesso in ruolo giuridicamente a settembre 2014. Giuridicamente vuol dire, diciamo, che formalmente sono stati immessi in ruolo, ma sostanzialmente ed economicamente no. La decorrenza in questo caso è dal 1 settembre 2015 e sono stato, posso dire, non abbastanza fortunato, ma mi ritengo quasi miracolato, perché insomma, ho visto come sono andate la famosa mobilità, ho visto come andate, le persone sono state sbattute davvero molto molto lontano, mentre io sono solo fortunato e torno nell'istituto in cui mi sono diplomato. Era il tuo sogno quello di insegnare? No, chiaramente un ragazzo di 20 anni ha tanti sogni. Sicuramente questo è uno di quelli, magari di divenire collega dei propri ex professori, credo che sia un sogno abbastanza comune, no? Se anziché Salerno ti avessero proposto, non so, la Lombardia, il Veneto, insomma una sede più lontana, cosa avresti fatto? Ovviamente, essendo la situazione economica odierna molto molto deficitaria, avrei accettato e mi sarei andato lì dove mi avrebbero mandato, insomma. Ci racconti cosa insegni? Allora, io insegno negli istituti tecnici, nello specifico nell'istituto per geometri a Salerno, quindi insegno laboratorio per l'edilizia e per le esercitazioni topografiche. È una materia molto interessante, specifica per l'istituto e anche molto importante per i ragazzi. Che ne pensi dei tuoi colleghi che in questi giorni stanno mugugnando perché insomma devono allontanarsi da casa? Ah, guardi, sicuramente questo è un dramma che colpisce soprattutto le famiglie, io immagino quelle persone che magari hanno anche dei figli. Io posso dire che sono un figlio del precariato perché mia madre in primis è stata una precaria, è entrata di ruolo praticamente a 45 anni, insomma, quindi in età abbondantemente adulta. Quindi comprendo appieno queste difficoltà. Mi ritengo un fortunato, un privilegiato e insomma sono pienamente conscio della fortuna che mi è capitata. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.